cinieca nella mia staccia ammalata. S'affaccia la sorella e me lo dice, nella toia è morta e se atterrata. Chiarieva sempre dorme con i morti accompagnata. Dorme con i morti accompagnata. Thank you. Thank you.